ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Aspettando con costanza che arrivi Meassa, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Buona giornata a tutti da Deborah Rossani, eccoci ritrovati in diretta. Riprendiamo esattamente dove il giornale radio ci ha lasciato e quindi volevo ribadire l'ultima notizia, appunto, che la nostra Valeria De Rosa vi ha raccontato. Cioè, volevo ritornare sulla questione di tutti quei viaggi, di tutti quei voli che sono stati cancellati nei mesi passati causa Covid, ma come sapete c'era stata una grande polemica sulle modalità di rimborso di voli non utilizzati, di spese naturalmente non sostenute, perché molte persone non hanno potuto effettivamente viaggiare e non hanno potuto utilizzare, appunto, i voli prenotati. Allora, che cosa è successo? Lo avete sentito? Ve la ribadisco la notizia perché è molto importante naturalmente. Allora, Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli e adesso i consumatori possono scegliere fra il rimborso o voucher. E data questa disponibilità, l'ha reso noto l'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, ha deciso per questo motivo di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di ben 4 procedimenti, appunto, che erano stati avviati nei confronti delle compagnie. Lo ricorderete, appunto, proprio procedimenti che erano stati avviati alla fine del mese di settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, motivata con il Covid, offrendo in cambio ai consumatori soltanto voucher. La cancellazione, lo ricorda l'antitrust, era motivata con la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene i servizi si riferissero ad un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi, e il tutto peraltro senza fornire assistenza e adeguata informazione. Forse questo era stato un po' il problema più importante, perché sappiamo che per bassi costi, chiaramente, molto spesso i servizi offerti, ma qua non solo dalle compagnie aeree, da tanti ambiti, appunto, sono un po' scarsi. Allora queste compagnie non sempre sono raggiungibili facilmente in quanto a servizio clienti, e quindi probabilmente anche un po' questo era stato l'aspetto messo sotto osservazione dall'antitrust. In ogni caso, adesso pare che le compagnie potranno offrire anche il rimborso cash, quindi non soltanto attraverso il voucher, e quindi naturalmente noi continueremo proprio anche per queste ragioni a tenere sotto osservazione la vicenda. Peraltro stavo guardando un po' qual era stata stamattina la reazione delle associazioni dei consumatori di fronte a tutto questo. Leggo un commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che accogliendo l'annuncio fatto dalle 4 compagnie che ora offrono il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli, un'ottima notizia ma non basta. Massimiliano Dona ricorda anche come l'Europa abbia aperto una procedura di infrazione contro l'Italia su questi aspetti, quindi adesso queste modalità di rimborso tramite voucher, secondo Massimiliano Dona, va appunto cancellata definitivamente e completamente. In ogni caso, l'ultima scelta spetta sempre al consumatore, questo è l'aspetto importante. Allora, tra l'altro, poi prossimamente, nel caso in cui le 4 compagnie in questione dovessero nicchiare in modalità di rimborso, sulle modalità di rimborso, voi segnalatecelo a 2didenari@radio24.it e noi magari ritorneremo anche a coinvolgere direttamente l'antitrust per farci capire come hanno intenzione poi di monitorare l'effettivo comportamento dei vettori. Di cosa parliamo invece questa mattina? Allora, ancora una volta parleremo di educazione finanziaria. Sta andando avanti il mese dell'educazione finanziaria. Oggi vi raccontiamo quali sono le abitudini di risparmio e di investimento di, come dire, risparmiatori che possiamo definire un po' smart, quelli che apprezzano molto le modalità di utilizzare i servizi bancari secondo le nuove opportunità fintech. e fra un po' sentirete appunto di che cosa stiamo parlando, e poi parleremo anche di, utilizzo termini difficili stamattina, ma dobbiamo abituarci a queste nuove realtà attorno a noi, parleremo anche di prop tech, cioè di investire nel mercato immobiliare utilizzando dei servizi innovativi dal punto di vista digitale. Parleremo del crowdfunding, per qualcuno una realtà del tutto sconosciuta, in realtà molti di voi ci stanno chiedendo di chiarire come funziona questo mercato, che consente appunto di investire nel mattone senza necessariamente comprare case, immobili e quant'altro, ma magari versando delle piccole quote attraverso delle piattaforme particolarmente innovative, che peraltro promettono anche dei rendimenti interessanti. Siccome questo è un aspetto che ci ha generato un po' di curiosità, se non perplessità, noi siamo voluti andare a capirne qualcosa di più. E allora 800 24 00 24, se volete, come sempre, prendete in mano la cornetta e chiamateci per le vostre domande. Se non volete intervenire in diretta, potete utilizzare la consueta modalità del 349-238-6666. Riceviamo i vostri messaggi sia SMS che WhatsApp. Adesso diamo il via alle nostre notizie in breve. Amore, i soldi. And we're down we go. Allora, sono settimane in cui per molte città italiane scade la Tari, dobbiamo versare appunto la tassa sui rifiuti. Ci sono delle novità che entreranno a regime a partire dall'anno prossimo, da quando cioè la Tari potrà essere pagata attraverso Pago PA, che è la, appunto, sistema di pagamento della pubblica amministrazione, anche se rimarranno anche le attuali modalità di pagamento, l'F24, i bollettini appunto delle amministrazioni locali. C'è un decreto ministeriale datato 21 ottobre che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale il Dipartimento delle Finanze ha regolamentato i versamenti elettronici delle entrate comunali effettuati appunto utilizzando la piattaforma Pago PA. E con questo provvedimento ne sono state disciplinate modalità di riversamento e di trasmissione dei relativi dati. È una questione complessa, ma in realtà meno di quanto si possa pensare. Nella sostanza è un altro tassello che si aggiunge a tutto quel meccanismo di cambiamento che sta riguardando il nostro rapporto, se vogliamo, anche con la pubblica amministrazione. Stiamo vivendo un momento di profonda evoluzione e sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici. Stamattina lo raccontano con tutti i dettagli del caso Alessandro Mastro Matteo e Benedetto Santa Croce a pagina 30 del Sole 24 Ore di oggi, per cui dall'anno prossimo la novità riguarderà anche la Tari. Un altro tema invece di risparmio e di investimento, i temi che ci stanno particolarmente a cuore. Allora, qual è la raccomandazione più importante che fa il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria? Noi la ribadiamo tantissime volte con Mauro Meazza, che saluto anche questa mattina alle prese con i suoi malanni di stagione in questo periodo. Non firmare se non hai compreso, e lo ribadiamo con forza alla luce di questa notizia appunto che abbiamo trovato stamattina, la scriviamo anche noi del Sole 24 Ore. Allora, il gruppo bancario svizzero UBS ha perso l'arbitrato Consob con un cliente, un imprenditore agricolo, al quale aveva consigliato investimenti per oltre 1 milione di euro in prodotti che alla fine si sono dimostrati derivati rischiosi. È una vicenda che risale al 2014. Un imprenditore di Firenze, sotto la consulenza di questa grande banca di investimento, ha investito in derivati con sottostante il petrolio. Un investimento rischioso, soggetto ad alta volatilità, tanto che nel giro di poco meno di un anno le perdite che il nostro risparmiatore, il nostro amico risparmiatore, aveva accumulato erano già di 500.000 di euro. Che cosa ha fatto l'imprenditore? Chiaramente molto deluso dall'andamento del prodotto di investimento sottoscritto, ha chiesto spiegazioni alla banca. Evidentemente le spiegazioni che arrivavano non erano molto soddisfacenti e l'imprenditore è andato dritto negli studi di alcuni avvocati. Questi hanno verificato i documenti, si sono accorti che si trattava di un prodotto sintetico che era stato venduto in Italia. In genere c'è questa differenziazione fra i fisici e i sintetici quando proprio si tratta di investimenti particolari in materie prime. Se sarà il caso, magari prossimamente ci torneremo. Ed era stato venduto in Italia soltanto a questo cliente e quindi chiaramente c'erano tutti i presupposti per attivarsi con un contenzioso contro la banca, ed è stato scelto l'arbitro per le controversie finanziarie, che è l'organismo appunto della Consob per questo tipo di contenziosi. Noi ne abbiamo parlato anche proprio la settimana scorsa con tutto lo staff della Consob che si occupa di questi argomenti. E allora l'arbitro Consob è arrivato appunto ad una decisione: non c'è stata carenza informativa da parte di UBS, ha detto la Consob, ma l'organismo ha ritenuto che trovandosi di fronte ad un derivato, per quello che riguarda il risparmiatore, noi non poteva essere consigliato a questa categoria, non poteva essere appunto non poteva essere suggerito a questa tipologia di investitore un investimento di questo tipo. Pertanto l'arbitro ha condannato UBS al risarcimento della minusvalenza che l'investitore aveva registrato, quindi questi 500.000 euro di cui vi dicevo prima. Quindi sostanzialmente non ha dato totalmente torto ad UBS, ma comunque il prodotto doveva essere spiegato un po' meglio all'investitore finale. Un'altra notizia prima del primo approfondimento di oggi: dal prossimo mese le famiglie che ne hanno diritto potranno iniziare ad usufruire del voucher fino a 500 euro per dotarsi di connettività internet veloce, di tecnologia adeguata, personal computer e tablet. È finalmente quanto ha deciso il comitato banda ultralarga, appunto il comitato pubblico, che ha dato mandato ad Infratel, è la società vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, affinché appunto possa portare avanti tutte quelle iniziative necessarie affinché i cittadini possano fruire il prima possibile delle agevolazioni previste appunto dai voucher. Per cui magari ci ritorneremo anche prossimamente con un'approfondita puntata. Alle famiglie, ricordiamo, viene riconosciuto un contributo che può arrivare anche fino a 500 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi e tutti, se ci sono presenti naturalmente, anche tutti i relativi servizi di attivazione e fornitura dei dispositivi elettronici, tablet o PC. Allora, abbiamo detto tutte le notizie in breve di questa mattina? Direi di sì. Adesso abbiamo il nostro consueto sportello reclami e poi il primo tema di oggi. Dillo a due di denari. Buongiorno. Relativamente al BTP futura di prossima emissione, mi sovviene quanto avevo letto in occasione del lancio del primo BTP futura, ossia era un articolo che titolava non sempre riservato a equivale a beneficio di, e sono molto d'accordo e mi rendo conto, esagerando ma solo per farmi capire, penso che dal punto di vista etico lo Stato si stia comportando un po' come Banca Etruria. Cosa ne pensate? Noi, se l'ascoltatore vuole, potrà reintervenire esprimendo le sue perplessità in una puntata che faremo proprio su questo tema martedì prossimo, non sul BTP Futura, la prossima emissione prevista per i primi di novembre, ci torneremo anche su questo, ma la settimana prossima, in occasione del nostro alfabeto del risparmio, parleremo proprio del tema titolo di Stato, perché il mercato obbligazionario italiano, alla luce della crisi importantissima che stiamo vivendo, sta cambiando faccia e ci sono sempre più emissioni di scopo, emissioni destinate. Il BTP Futura è uno di questi. Ci saranno prossimamente BTP Green, ci sono state, come sapete, a livello europeo le emissioni obbligazionarie destinate a finanziare il programma Sure, quindi è un mercato obbligazionario che sta diventando sempre di più a destinazione precisa, un mercato obbligazionario di scopo. Alla luce di questo cambiamento noi proveremo a rispondere anche alle perplessità dell'ascoltatore che addirittura paragona il titolo di Stato all'obbligazione subordinata di una banca. Io non vorrei confondere mele con pere, gentile ascoltatore. Se lei ha il dubbio sulla validità di un investimento, vale per il BTP futuro come di un altro, nessuno obbliga a investire fino a quando non si sono chiariti tutti i dubbi. Il problema grande anche delle obbligazioni subordinate a cui lei ha paragonato il BTP Futura è che molti risparmiatori avevano investito quasi totalmente il loro patrimonio in questi prodotti e quindi si sono ritrovati nei guai fino al collo per questo motivo. È la banca del territorio che proponeva questi investimenti e ci si fidava ciecamente, quindi ci sono tanti fattori. Il BTP Futura è destinato ad un pubblico retail, i tagli di investimento sono piccoli e quindi non è che uno debba per forza investire tutto quello che possiede, tutto quello che risparmia in questo titolo di Stato, soprattutto se non ci crede. Abbiamo tutti gli strumenti per poterci informare e documentare. Se lei ha questo dubbio sulla caratteristica del prodotto, basta non sottoscriverlo, però porteremo i suoi pensieri anche al dirigente del Ministero dell'Economia che martedì prossimo, lo anticipo già a tutti i nostri ascoltatori, sarà con noi. Adesso andiamo al primo tema di oggi. Allora, siamo nel mese dell'educazione finanziaria, terza edizione, ne parliamo tantissimo, vi stiamo veramente ossessionando su questo argomento, ma noi ci teniamo perché vogliamo che nel caso in cui Covid, distanziamento permettendo, ci sia un'iniziativa vicino a casa vostra, nella vostra città, in cui potete andare a seguire qualche programma per migliorare le vostre competenze finanziarie. Noi vi suggeriamo appunto di andare a curiosare, perché sono momenti in cui dobbiamo prenderci molta cura del nostro risparmio, proprio perché sono momenti difficili. E questo è un tema, il mese dell'educazione finanziaria. Questo mese si conclude la settimana prossima, nella giornata in cui peraltro si svolgerà anche la giornata mondiale del risparmio, l'ultimo giorno del mese di ottobre. Anche questo è un appuntamento ormai molto consolidato, storico per quello che riguarda il nostro paese. Ci saranno anche in quella giornata tante iniziative in tutta Italia e in occasione della giornata mondiale del risparmio c'è un'iniziativa che vogliamo segnalarvi, perché è un'iniziativa interessante soprattutto di ricognizione delle abitudini di risparmio e di investimento degli italiani, che ha sfruttato negli ultimi anni la rivoluzione digitale. Quindi tutto un presupposto complicato. Intanto, per salutare Benedetta Rese Lucini, CEO e co-founder di Oval Money, l'applicazione che in qualche modo ha voluto rivoluzionare e rendere più smart. Continuiamo ad utilizzare dei termini in inglese, ma adesso li traduciamo rapidamente per chi l'inglese lo detesta quando si parla di risparmio, per rendere appunto, dicevo, più smart risparmi ed investimenti, non solo per le giovani generazioni ma anche per coloro magari un pochino più avanti negli anni, ma che apprezzano la rivoluzione digitale che ha riguardato i servizi finanziari, i servizi bancari. Benedetta, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie a voi di avermi avuto sul vostro programma. Allora, tante cose da commentare con Benedetta. Tra l'altro questa mattina potremmo dare, se lo vorrà, anche in anteprima i dati di un'indagine che Oval Money ha svolto fra la platea dei propri clienti, peraltro credo qualcosa come 450.000 persone che in Italia hanno voluto iniziare, come dite voi, un nuovo percorso finanziario avvalendosi anche delle modalità digitali. Come vi state preparando a celebrare, Benedetta, la giornata mondiale del risparmio, tenendo conto anche di quello che abbiamo scoperto negli ultimi giorni, cioè che sempre più italiani mantengono fermo sul proprio conto corrente quello che riescono a risparmiare, quindi credo che anche per voi questa sia una tendenza interessante in qualche maniera, se vogliamo, da intercettare. Assolutamente, grazie mille. Sì, per noi questo mese è importante, ma noi lo celebriamo l'educazione finanziaria un po' tutto l'anno, perché è un po' la missione della nostra app, portare un po' di educazione finanziaria a chiunque ne abbia bisogno, come dici tu, sì, certi giovani, ma anche i non così giovani che hanno voglia di avvicinarsi a questo mondo attraverso un'applicazione digitale. Quello che abbiamo visto e il modo in cui vogliamo celebrare questo periodo è che abbiamo appena rilasciato proprio una nuova versione dell'applicazione che rende tutto molto più semplice, sotto consiglio anche di tutti questi utenti che ci hanno seguito negli ultimi anni, che ci hanno dato feedback su come migliorare. e quindi abbiamo rilasciato una nuova versione dell'app proprio adesso disponibile negli store, sia per Apple che per Android, che permette alle persone di non solo risparmiare ma anche scegliere gli obiettivi di risparmio. Questa è stata una chiave che ci hanno chiesto tantissime persone e abbiamo visto già dai prime persone che hanno cambiato e scaricato la nuova versione dell'app che si sono veramente sbizzarriti in un sacco di iniziative, sia più diciamo ludiche, quindi voglio risparmiare per un viaggio, anche perché quest'anno i viaggi sono stati pochi, o per comunque comprare qualche piccolo qualcosa in più che non mi ero permesso prima, ma tantissime persone, proprio perché questa pandemia ha portato un pochino più di insicurezza, stanno risparmiando per cose molto più a lungo termine, per ripagare i mutui o per essere comunque avere un fondo che in caso di qualsiasi situazione di emergenza possono andare ad attingere. Senti Benedetta, volevo chiederti una cosa. Io mi confronto molto spesso con il mondo della consulenza finanziaria. I consulenti finanziari mi raccontano che prima di arrivare ad un rapporto di fiducia con la propria clientela si deve fare un percorso lungo, articolato e spesso difficile, proprio perché le persone fanno fatica ad identificare i cosiddetti obiettivi finanziari che si vogliono raggiungere, personali e della famiglia. In questo caso invece tu mi stai dicendo che attraverso l'applicazione i vostri utenti riescono a comprendere molto bene il tema dell'obiettivo finanziario da raggiungere, del risparmio finalizzato. Come possiamo commentare questa incongruenza? Con il consulente finanziario di persona la condivisione è più difficile non so adesso come definirla, insomma, con il fatto che un'applicazione ti consente di individuare il tuo obiettivo, non condividerlo con nessuno, ma come dire considerarlo fra te e te, c'è più facilità forse di fare questa anche questo passaggio mentale, no? L'importanza di risparmiare per obiettivo. Che ne pensi? Allora, noi abbiamo fatto anche un paio, l'anno scorso, sempre per questo periodo, avevamo fatto anche un'iniziativa e un questionario insieme all'Università Bocconi, un po' più generico, non solo ai nostri utenti, e abbiamo visto che queste nuove generazioni sono un po' più diffidenti del classico consulente finanziario, non si va più tanto nelle filiali in banca, come sai, c'è proprio un cambiamento di paradigma. E quello che vediamo è che invece c'è condivisione, ma forse più con i pari. Noi abbiamo una community estremamente attiva sui nostri social media che vanno da Facebook a Telegram, anche abbiamo dei vari tool su cui i nostri clienti possono darci dei suggerimenti, scrivere i commenti, abbiamo fatto una versione di questa app in beta con quasi 1000 persone che tutti i giorni ci dicevano come migliorarla, quindi e condividono anche tra di loro i loro obiettivi o piuttosto il loro raggiungimento di un buon risparmio che non si sarebbero mai aspettati. Quindi penso che ci sia più una voglia di condividere con i propri pari e questo è molto stimolato dal mondo del digitale, ovviamente. Assolutamente. Grazie a Benedetta Rese Lucini di essere stata con noi, CEO e founder, ideatrice, fondatrice, oltre che quindi amministratore delegato di Oval Money, la app smart per consentire a tutti di approcciarsi al mondo del risparmio con calma e gradualità. Adesso ci fermiamo, c'è la borsa e poi dal fintech andiamo al proptech. Pecunia non ho le... Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su aruba.it. Due di denari. Relativamente alla sentenza dell'ACF che ha condannato a risarcimento l'UBS, sarebbe interessante sapere se poi questi soldi, questi 500.000 euro, sono effettivamente stati dati al cliente. Ah vabbè, magari il cliente è interessato, questo signore di Firenze ci sente, ci ascolta e ci comunica se e in che tempi queste decisioni dell'arbitro finanziario appunto vengono adottate dai diretti interessati, perché non sono delle vere e proprie condanne come quelle che vengono stabilite in un tribunale le decisioni degli arbitri per le controversie finanziarie, per cui effettivamente bisognerà capire se e in che tempi il risparmiatore ritorna nel legittimo appunto possesso del suo denaro. Grazie per la sollecitazione all'ascoltatore, indagheremo in un secondo momento dopo aver affrontato il tema che vogliamo affrontare questa mattina. Oggi parliamo di investimenti nel settore immobiliare da un punto di vista un po' particolare. Allora, noi sappiamo che il mattone come va? È un settore di investimento, negli ultimi anni lo abbiamo capito esattamente come tutti gli altri. Ci sono dei momenti in cui i prezzi delle case volano, noi siamo tutti contenti, anche se poi chiaramente le compriamo a prezzi alti. Poi arrivano le crisi, i prezzi delle case tracollano e noi magari vogliamo rimettere in vendita la nostra abitazione e non ci facciamo il prezzo che abbiamo in testa. E quindi abbiamo capito che effettivamente è una classe di investimento come tutte le altre. Però gli italiani amano tantissimo il mattone e non sempre hanno la capacità di capire quando è il momento giusto per comprare e come mettere a reddito. Oggi la digitalizzazione dei servizi finanziari ha investito anche questo settore, ci sono tante novità che consentono anche ad un piccolo risparmiatore di investire nel settore immobiliare senza necessariamente comprare un edificio, un negozio, un ufficio o una casa. E allora noi oggi ne parliamo perché cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Parliamo del crowdfunding immobiliare, vogliamo raccontarvi questo settore, le opportunità che offre, cosa significa investire attraverso queste piattaforme innovative, ma anche che rischi ci sono se non comprendiamo bene la dinamica e il funzionamento appunto di queste attività. Allora, i nostri ospiti di questa mattina, abbiamo un divulgatore sul tema delle opportunità di investimento nel mercato immobiliare. Saluto Gerardo Paterna, blogger, consulente immobiliare e anche fondatore di ReTV, se non ne sbaglio. Gerardo, buongiorno, sì, grazie. Corretto. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie. E poi saluto Andrea Maffi, un imprenditore nel settore del crowdfunding immobiliare, founder di Trustiers. Maffi, buongiorno e bentrovato a Due di Denari. Buongiorno, grazie a tutti. Allora, 800 24 00 24, girateci pure le vostre curiosità. In tanti mi avete scritto nelle settimane passate perché ci avevate chiesto una trasmissione sull'argomento. Eccola qua, subito pronta per voi, e quindi datevi da fare appunto con le domande al numero verde o anche al numero per gli SMS. Gerardo Paterna, il mattone è molto solido, ma anche il mercato immobiliare è travolto, io lo dico in termini positivi, dalla rivoluzione digitale. Piattaforme innovative per le compravendite, agenzie immobiliari con sempre meno agenti ma che danno la possibilità di visitare le case che si vogliono comprare stando seduti da casa propria, la disintermediazione è sempre più importante, aste per acquistare una casa con questa modalità sempre più facilitate. Cosa sta succedendo? Come il mondo digitale sta incrociando quello immobiliare? La domanda è, direi, complessa, ma cerchiamo di sintetizzarla. Direi che il digitale, le tecnologie, soprattutto nel 2020, hanno impresso una certa velocità quindi al settore immobiliare, cambiando proprio le nostre abitudini di vita generale, ma noi stiamo parlando di immobiliare stamattina, quindi anche per quanto riguarda la ricerca di casa. Pensiamo alle faticacce degli anni scorsi, prima del passaggio al digitale. Oggi tutte le informazioni sono accessibili, sono online, è possibile visionare, come diceva prima, le case a distanza attraverso le visite virtuali, è possibile accedere a informazioni legate a mutuo di acquisto, è possibile addirittura partecipare alle aste immobiliari online, e ricordo non soltanto le aste immobiliari giudiziari, ma quelle anche a mercato libero. L'ultimo caso, per fare un nome su tutte, la casa d'aste Bolaffi, che ricordiamo tutti per i francobolli e la numismatica, quindi anche loro si sono lanciati di fatto in questo tipo di mercato, consentendo quindi anche la partecipazione online a questo tipo di aste. Quindi insomma le realtà sono tante, quindi il mattone è sempre più vicino al salotto di casa proprio grazie alla digitalizzazione, questo è un fatto. E E in ultimo, ovviamente, stamattina di crowdfunding dobbiamo parlare, e quindi voglio dire assolutamente da salotto di casa è possibile anche fare investimenti diversificati in ambito immobiliare, col vantaggio di avere sicuramente accessibilità, velocità e tante informazioni che prima non si potevano avere. E mi fermo quando me lo dice lei. Assolutamente, ci fermiamo per adesso. Gerardo, grazie. Andrea Maffi, allora andiamo un po' a raccontare la modalità, il mondo del crowdfunding immobiliare, che significa rendere abbordabile a tutti l'investimento nel settore immobiliare, anche senza necessariamente appunto acquistare direttamente un immobile, un edificio. Ci racconta esattamente che cos'è questa realtà, questo mercato, per poi andare a spiegare magari con qualche grado di dettaglio in più il funzionamento della vostra piattaforma, ma nel complesso, quando ci approcciamo al mondo del crowdfunding immobiliare, verso quale mondo andiamo incontro? Sì, allora innanzitutto lo strumento, questo strumento finanziario moderno, che sta innovando fortemente l'approccio verso l'investimento immobiliare, ecco, come principio a proprio questo che un po' aveva annunciato Paterna, quindi innanzitutto semplificare e rendere accessibile a un gran numero di persone, di investitori che desiderano investire nel mattone, appunto semplificando vari processi. Il mondo del crowdfunding immobiliare in Italia, seppur recente, come nel resto d'Europa, diciamo, viene identificato sostanzialmente in due principali modelli. I modelli sono lending e equity, che per sintetizzare e fare una differenziazione, il modello lending è cosiddetto modello a prestito, quindi gli investitori partecipano a operazioni di finanziamento, quindi prestando il loro denaro, e l'altro modello, che invece è il modello cosiddetto equity, dove chi investe entra e partecipa direttamente, quindi acquista una quota della società che poi si occuperà di fare l'operazione immobiliare direttamente. Quindi innanzitutto è utile identificare queste due diverse tipologie di piattaforme, di diversi modi di crowdfunding, di fare crowdfunding appunto nel mondo immobiliare. Il vostro qual è? Il nostro è modello lending, quindi chi si iscrive sulla nostra piattaforma presta, quindi finanzia operazioni immobiliari prestando il proprio denaro e avendo fin da subito ben chiari i tempi di restituzione e gli interessi appunto che verranno corrisposti, quindi una sorta di obbligazione diciamo legata al mondo immobiliare. Quindi questo è anche un po' il nostro orientamento, che punta a semplificare il processo di investimento. Il grande vantaggio è, oltre alla semplicità, l'accessibilità, perché è possibile investire veramente con poche centinaia di euro. Certo, adesso ci farà capire un po' meglio qual è il taglio minimo di investimento, ma soprattutto ci interessa il tema della restituzione, perché so che, come dire, sulla carta la promessa di rendimento è anche molto allettante ed interessante in un momento in cui il mercato azionario è ballerino, il mercato obbligazionario offre rendimenti raso terra, se non addirittura negativi. Effettivamente ci incuriosisce il fatto della promessa di investimento, che è molto interessante. Ma volevo tornare per un attimo a Gerardo Paterna per capire questo mercato in Italia occupa quale spazio, è interessante, ci sono molte piattaforme, come è cresciuto, come sta crescendo, oppure è ancora, come dire, un mercato ad appannaggio di pochi? Sì, grazie. Intanto saluto Maffi, che vedo online, ci seguiamo vicendevolmente, ma di persona ancora non ci siamo incrociati, capiterà presto. Quindi ho fatto questa caramba, ecco. Questa, ho tenuto il battesimo anche il vostro. Era doveroso. Allora, numeri. Ci affidiamo sempre ai numeri del report del Politecnico, quindi scopriamo che in Italia il real estate crowdfunding praticamente ha raccolto, diciamo, raccoglie circa 50 milioni all'anno. Questa è la situazione. Rispetto, per esempio, per darvi giusto la dimensione del fenomeno, se parliamo del mercato americano parliamo di 7,5 miliardi, se parliamo del mercato europeo tutto parliamo di 2,5 miliardi all'anno di raccolta, se parliamo dell'Italia sono circa 50 milioni. Ecco, questo ci indica che, allora, il treno del crowdfunding è una grandissima opportunità. Il fenomeno è ancora un po' nano, ci sono tante piattaforme, sono quelle censite 11, quindi si rischia magari anche un'eccessiva frammentazione, tipica per caso del mercato italiano, che è campione di frammentazione, l'Italia dei comuni, quindi è normale che sia così. Quindi insomma un settore che può crescere, ma inevitabilmente ha bisogno di tempo, soprattutto di risorse. E anche, se vogliamo, lancio qui un piccolo sassolino, proprio tu, lei prima parlava della restituzione, no? che è il vero tema, perché oggi la comunicazione in generale è basata su investi con noi, rendimento alto, fantastico, raccolta tempo di record, in due settimane chiuso il progetto Pinco, quindi abbiamo, ecco, però poi pochissimi parlano dei tempi di restituzione, cioè quando l'investitore porta a casa interessi e capitali, perché la realtà è che ci sono diverse situazioni dove l'investitore si ritrova ad inseguire la piattaforma di crowdfunding perché per ragioni di mercato l'immobile non viene venduto nei tempi previsti, ok? E quindi ci sono dei ritardi non quantificabili. Perfetto. Carissimo, abbiamo subito capito le criticità che possono riguardare questo mercato. Adesso Andrea Maffi ci risponde sulla tipologia di informazioni che dà alla propria base, appunto, di utenti della sua piattaforma su questi aspetti. Tutto questo però lo facciamo dopo il traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Due di denari. Allora, pochi minuti di tempo ancora per conoscere al meglio possibile l'attività del crowdfunding immobiliare. Trusteers, Andrea Maffi. Allora, andiamo subito a rispondere alle perplessità che ci ha trasferito Gerardo Paterna, che possono essere quelle che un piccolo risparmiatore che si approccia a questo mondo potrebbe anche sollevarvi nel momento in cui guarda con interesse appunto a questa attività. Allora, io sono Mario Rossi, voglio investire con la vostra piattaforma 50.000 euro, vado sul sito e vedo tutte le opportunità immobiliari che ci sono e che andrebbero finanziate. Aderisco ad una proposta, che cosa succede da lì in avanti? Intanto, qual è la promessa di rendimento media che siete in grado di garantire? Ed effettivamente il tema della restituzione ha questa criticità che ha sollevato Gerardo Paterna, oppure riguarda solamente alcune piattaforme che non si sono ancora presentate con tutte le dovute credenziali sul mercato? Maffi. Sì, io ovviamente parlo per quella che è la nostra esperienza, quindi... Allora, innanzitutto il signor Mario Rossi, dal momento in cui si trova sulla piattaforma, deve seguire un processo appunto di iscrizione molto semplice e poi di validazione attraverso un istituto di pagamento, quindi viene fatto quello che è cosiddetto KYC. Da quel momento in poi può caricare il suo wallet, quindi il suo deposito personale attraverso un bonifico tradizionale, e da quel momento è pronto per investire sulle varie proposte immobiliari che di volta vengono presentate sulla piattaforma. Voi per esempio in questo momento quante ne avete? Allora, fortunatamente, avendo una chiusa ben tre la settimana scorsa, oggi abbiamo una nuova proposta, quindi tendenzialmente noi proponiamo due proposte nuove a settimana sulla nostra piattaforma, quindi è possibile insomma scegliere settimanalmente su diverse proposte, diversificando. Questo è un grande valore aggiunto della piattaforma, la possibilità di poter scegliere più operazioni sulle quali investire, quindi questo è già un modo per poter ridurre in qualche modo, insomma, il diversificando rischio, certo. Esattamente, quindi questo è un grande vantaggio della piattaforma. Un altro vantaggio importante è la presentazione di tutte le informazioni necessarie per poter fare una scelta consapevole, quindi sulla piattaforma normalmente ci sono tutti i dati finanziari, tutti i dati relativi alla società, tutti i dati immobiliari, ed anche un rating che entra nel dettaglio sia della società proponente sia nel dettaglio della proposta immobiliare che andiamo a raccontare. Quindi l'investitore può scegliere, può leggere tutte le informazioni e scegliere se decidere appunto di partecipare al finanziamento oppure rinunciare e investire in una situazione che magari lo convince di più. Mm-hmm. Questo è un grande vantaggio. Quindi magari si può me. Iscrivere alla piattaforma, stare a perlustrare un po' lì per un po' di tempo l'offerta che proponete ed eventualmente decidere di investire, spezzettando magari l'investimento in più operazioni immobiliari. Maffi, ci dice qual è il taglio minimo di investimento che registrate? Non credo che ne esista uno minimo dato per norma per aderire ad un'operazione di crowdfunding immobiliare. E soprattutto, quanto tempo bisogna stare investiti in media con voi per ottenere la famosa restituzione e un rendimento accettabile? Assolutamente. Allora, innanzitutto sulle nostre proposte immobiliari abbiamo fatto una scelta, cioè rendere il crowd veramente assolutamente accessibile, quindi con investimenti anche a partire da 100 euro, quindi assolutamente investimenti che possono fare la maggior parte di noi. Per quanto riguarda il tempo di restituzione medio, noi abbiamo anche qua fatto una scelta strategica nella scelta delle operazioni immobiliari che portiamo in piattaforma, e sono tutte operazioni immobiliari che rientrano, diciamo, entro i 12 mesi, quindi o massimo 12 mesi, quindi entro l'anno. Vorrei aggiungere questa cosa: noi abbiamo già fatto più di 20 restituzioni, quindi abbiamo raccolto più di 70 progetti. Abbiamo già fatto rientrare gli investitori per 20 dei progetti presentati, quindi mi viene a dire una dimostrazione che il lending crowdfunding funziona è già partita. Noi siamo state una delle prime piattaforme di lending crowdfunding a partire in Italia, ma anche la scelta strategica di scegliere operazioni piccole che vengono chiuse in breve tempo sta portando i suoi frutti, quindi noi amiamo la semplicità, e quindi anche la semplicità legata al mondo proprio dello sviluppo dell'operazione immobiliare. Quindi guardate che vi continuiamo a tenere sotto osservazione, naturalmente, perché ci interessa capire se soprattutto il tema del rendimento, che è l'aspetto che più attrae ovviamente l'investitore, viene promesso. Quanti utenti avete registrati fino a questo momento sul vostro portale? Sì, fino ad ora siamo 4.000 utenti, 4.000 iscritti attivi sulla piattaforma. E sono investitori che arrivano da ogni parte d'Italia, o comunque, visto che voi siete di qua, siete un po' lombardocentrici, Maffi? Oppure sì, sono operazioni che state sviluppando anche nel resto d'Italia? Allora, siamo partiti in realtà non proprio da Lombardia, ma addirittura da Milano, quindi più che lombardocentrici siamo milanocentrici, ma perché il mercato immobiliare milanese è un mercato, insomma, che è veramente un mercato a sé, quindi siamo partiti proprio da Milano. In realtà ci siamo avvicinati anche ad altri mercati interessanti, non esiste solo Milano in Italia, comunque molto interessanti. Abbiamo portato operazioni a Bologna, Verona, Bergamo, a Como, quindi stiamo iniziando a uscire fuori dal nostro comfort zone. Allora, intanto stavo guardando appunto qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori, se ce la faccio. Stefano da Bolzano, se ce la fa ad essere assolutamente sintetico. La domanda è molto bella, peraltro. Stefano? Sì, mi sentite? Allora, volevo domandare qual è la differenza sostanziale tra i vecchi fondi immobiliari chiusi, che davano un obiettivo di rendimento... Stefano, la sento malissimo, la domanda la trasferisco io, ma l'abbiamo capita. Non so se vuole incaricarsi appunto Andrea Maffi di rispondere. Peraltro, fondo immobiliare, qualche tempo fa abbiamo avuto anche una disavventura per molti risparmiatori italiani che li avevano sottoscritti in quote presso gli uffici postali. Quindi Maffi, qual è la differenza fra le due modalità di investire nel mattone? Sì, beh, innanzitutto la differenza più importante è che scelgo su quale prodotto immobiliare investire, quindi sono io che guido la mia scelta nel prodotto che più rappresenta le mie aspettative, quindi innanzitutto è questo. Secondo me poi un'altra cosa molto importante è praticamente che noi mettiamo in contatto direttamente, quindi c'è una sorta di disintermediazione, quindi si parla, si dialoga direttamente con la società che fa sviluppo immobiliare, quindi è proprio, come dire, un accorciamento totale della filiera. Noi facciamo presentare le proposte immobiliari direttamente dalle società proponenti. Il tempo a nostra disposizione è scaduto e come sempre è proprio sul finale che arrivano le tante domande degli ascoltatori. Allora magari proveremo prossimamente a rioccuparci dell'argomento, ringraziando intanto molto Gerardo Paterna ed Andrea Maffi di Trusteers per essere stato con noi. Tutti i riferimenti li trovate sui nostri canali social se volete andare a vedere qualche informazione più rispetto alle operazioni delle quali abbiamo parlato questa mattina. Grazie a tutti, ci risentiamo lunedì. Buon weekend da Deborah Rosciani. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.